Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati, che sono in redazione con me, e Andrea Roccabella, che è in regia. Domande, commenti o suggerimenti, richieste anche sui temi che vorreste che fossero trattati in questo spazio tutto dedicato agli esteri, al 349-238-6666, vi ricordo sia gli sms che il WhatsApp, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. E proprio ieri al 349-238-6666 c'era più di un ascoltatore che voleva che in qualche modo ricapitolassimo quella che era la situazione sul campo di battaglia di Aleppo, ed è lì proprio che partiamo. Ci ha seguito ieri, avrà ben compreso l'importanza di quella che era la capitale economica della Siria, città anche di grandissimo patrimonio artistico, quel che resta ormai dobbiamo dire di Aleppo, però tuttora cruciale per gli equilibri in campo. Chi sta combattendo ad Aleppo? Quali sono le linee logistiche, le linee di finanziamento? Ci soccorre in questa analisi Carlo Gian, docente di geopolitica e studi strategici all'Inc Campus di Roma. Professore Gian, buongiorno e ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, ci aiuti perché ieri con un altro ospite, Daniele Raineri, inviato del Foglio, abbiamo iniziato a sottolineare come la situazione sul terreno sia estremamente fluida, come gli attori in campo siano tanti e le sfumature siano ben presenti. Ci aiuti a capire chi sta combattendo per la battaglia di Aleppo? Parte sono le forze governative, cioè quello che resta dell'esercito siriano di Assad, che è supportato da combattenti stranieri che sono affluiti da diversi paesi, dal Pakistan all'Afghanistan, dall'Iraq all'Iran, e che si avvale anche di un forte supporto degli Hezbollah libanesi. E si cercano di riprendere il controllo di Aleppo, hanno però un grosso inconveniente, trovano grosse difficoltà. La prima difficoltà è il fatto che mancano gli effettivi per mantenere le posizioni che riescono a conquistare. E il mantenimento delle posizioni, il controllo delle posizioni richiede molto più effettivi che non delle puntate offensive. Puntate offensive che invece sono caratteristiche di quanto fa l'opposizione al regime di Assad, in particolare la cosiddetta cosiddetto esercito democratico siriano che è appoggiato dal Yabla al-Nusra, che ha cambiato però nome, non si conoscono ancora bene le ragioni, ha cambiato nome in fronte di liberazione del Levante, esattamente Yabla Fatah al-Sham, e che appoggia sopra l'azione delle forze democratiche, dell'esercito democratico, cosiddetto democratico siriano, caposaldo molto robusto che possiede nella zona di Idlib, che è a nord-ovest di Aleppo. Cosa accadrà? Queste sono le forze in campo. Cosa accadrà secondo lei in questa battaglia? Si legge da agenzie e da varie fonti che Damasco starebbe richiamando migliaia e migliaia di soldati per sostenere questa volontà di riprendersi la parte di Aleppo perduta. Ricordiamo il Free Syrian Army e altre formazioni che lei ricordava hanno aperto un corridoio su Aleppo, liberando e aprendo una parte della città che era completamente isolata da mesi. Cosa può accadere nelle prossime ore, professore? Yeah. mio avviso non capiterà nulla nelle prossime ore, si può parlare di giorni e di settimane, perché ad Aleppo è in atto una guerra di logoramento, una battaglia di logoramento che può durare anche diverso tempo, perché nulla è più favorevole alla difesa che non le è una città distrutta, in quanto tra le rovine si possono mimetizzare tiratori scelti, si possono mettere mine e così via, cose in cui l'opposizione siriana insieme allo stesso modo che l'ISIS anche ha una capacità tattica veramente notevole. Grazie mille a Carlo Gian, insegna geopolitica e studi strategici all'Inc Campus di Roma. Buona giornata e buon lavoro, Gian. Va bene, grazie dell'invito e buona giornata a voi. (349) 238 6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Fra l'altro c'è un'ascoltatrice, Antonella, che suggerisce una serie di tematiche tutte africane. Ce ne occuperemo, promesso. Fra l'altro oggi stesso parleremo anche di Etiopia, non prima però di aver riaperto un capitolo che abbiamo aperto la settimana scorsa e riguardava il cosiddetto presidente giustiziere. Pioto Michael Cortez, Barili Police Station, SPO1 Gen de la Victoria, PS5 Cebu CPO, SPO1 Onel Nabua. Questi soltanto alcuni dei nomi, 160 in tutto, pronunciati sabato dal premier filippino Rodrigo Duterte, che ha annunciato appunto pubblicamente una lista di persone coinvolte a vario titolo e a vario grado nel mercato e nel traffico della droga. Il problema è che in questa corposissima lista vi sono anche sindaci, politici, giudici, poliziotti e ufficiali delle forze dell'ordine. Quando Duterte ha letto questa lista pubblicamente, ha poi anche detto che entro 24 ore le persone menzionate in questa lista si sarebbero dovute presentare, consegnarsi alle autorità appunto entro 24 ore. Quello che è accaduto è che alcune di queste persone si sono presentate effettivamente, ma dicendo: guardate che noi non c'entriamo assolutamente nulla e siamo pronti a difenderci nei luoghi deputati. Quello che sta accadendo, la conseguenza, è che da parte di alcune voci, sia interne alle Filippine che esterne, si dice: attenzione, perché esiste una cosa che si chiama divisione dei poteri e il presidente, per omaggiare una lotta senza quartiere contro il trafficante di droga, sta veramente facendo il passo più lungo della gamba. C'è anche poi un aspetto, se volete, populista, perché quella lista è stata anche condivisa su Facebook da una fonte, da un media, un sito di informazione filippino, e ha avuto 41.900 condivisioni. Noi allora abbiamo raggiunto una voce critica rispetto a quest'ultimo atto del presidente Duterte. Ricordiamo che il presidente Duterte è quello che ha detto rispetto a trafficanti di droga: sparate pure a vista. Questo l'ha detto non soltanto alla polizia, ma l'ha detto pure a privati cittadini che potrebbero essere in possesso di un'arma. Allora, controversa la proposta, controversa la figura, controversa anche questa lista. Che cosa ha voluto fare il presidente Duterte recitando questi 160 nomi? Lo abbiamo chiesto alla senatrice Leila Dalima, che è del Partito Liberale delle Filippine, in passato è stata anche presidente della Commissione delle Filippine sui diritti umani e per 5 anni, dal 2010 al 2015, segretaria del Dipartimento di Giustizia. Sentite che cosa dice su questa lista. Per quanto io e molte persone ritengano la lista di name and shame uno strumento efficace, penso che sia anche molto problematico, perché in realtà infrange alcuni principi costituzionali come la presunzione di innocenza e il rispetto del giusto processo. Anche se il presidente sta semplicemente mostrando la sua determinazione nel risolvere il problema della droga, questo crea un contrasto con il nostro sistema legale e giudiziario. Le persone non riterranno più necessari giudici e i pubblici ministeri, dato che la carica più alta dello Stato ha già espresso un giudizio su alcuni individui senza concedere loro un giusto processo. E il fatto che abbia pubblicato la lista provoca già una stigmatizzazione delle personalità che vi compaiono. Ma cosa succede se queste persone si rivelano invece innocenti e non coinvolte nel mercato della droga? L'effetto sulla loro reputazione e quella delle loro famiglie sarebbe irreversibile. Quindi, mentre mi piace credere che il presidente sia stato imprevedibile nel mostrare la sua forte volontà di sradicare la minaccia della droga dal paese, chiederei agli avvocati di convincere Duterte a riconsiderare la sua posizione, altrimenti ci saranno moltissime ripercussioni sul nostro sistema legale e su quello giudiziario. E quindi, come sentite, come potete ben comprendere, si creerà un dibattito nel paese, nelle Filippine, perché, come diceva la senatrice Leila Dalima, liberale, non ci sono ancora prove della colpevolezza di queste persone, benché il presidente abbia detto: guardate che questa lista l'ho stilata con cognizione di causa e con informazioni precise. Sentite ancora che cosa dice la senatrice riguardo alla presunta colpevolezza, appunto, di queste persone. Yes, because in sì, perché nell'annunciare e nello svelare quei nomi vi è già la presunzione e la percezione della loro colpevolezza. Tuttavia non spetta al presidente giudicarli, ma alla Corte. Se ci fossero prove contro le personalità nella lista, quello che le autorità dovrebbero o avrebbero dovuto fare sarebbe stato aprire dei dossier giudiziari prima di rivelare i nomi. Al momento non sappiamo quanto sia accurata la lista, né se le personalità citate siano veramente implicate nel mercato della droga, né quali siano i loro ruoli: spacciatori, trafficanti, boss o protettori dei boss. La lista però contiene nomi specifici con indicazioni precise sugli status e la provenienza di queste persone, quindi non ci consola il fatto che il presidente abbia annunciato di aver fatto validare e rivedere la lista, perché comunque vi sono degli errori di procedura. How come there are perceived errors so far in the list? Nell'arcipelago delle Filippine è in corso da mesi un braccio di ferro tra il narcotraffico, sono soprattutto metanfetamine, quindi droghe sintetiche, pastiglie per banalizzare, e il neo eletto presidente Rodrigo Duterte, che nel giro di 3 mesi ha fatto circa 700 morti, la sua campagna contro appunto i narcotrafficanti. A volte però vi sono andate di mezzo persone fragili, persone deboli. Quella foto, ricorderete, da cui siamo partiti, apparsa sul New York Times, che restituiva tutta la violenza di questa lotta senza quartiere. I diritti umani, appunto. Se i diritti umani non vengono rispettati, quale sarà allora il limite alle violenze di Duterte? Sentite ancora la senatrice liberale. Bisognerebbe ricordare al presidente che il rispetto dei diritti umani ha ancora un'importanza suprema nella nostra Costituzione, che dà loro moltissima enfasi ed importanza, ed è l'unica al mondo che comprende numerose norme di controllo su di essi. Non si può accantonare il rispetto dei diritti umani solo perché questa amministrazione si sta sforzando nella battaglia antidroga. Non si possono sacrificare questi diritti per sconfiggere la criminalità e la minaccia della droga in questo paese. In this country. (349) 238-6666 per domande o commenti. Vi sono ancora alcuni messaggi, fatemi fare un passo indietro. Relativamente alla battaglia d'Aleppo e alla situazione siriana, c'è chi dice che alla fine la guerra in Siria è uno scontro tra due superpotenze, Russia e Stati Uniti, a spese degli innocenti. C'è chi mi sollecita dandomi del furbetto perché non lo dico: chi finanzia i terroristi antigovernativi di al-Nusra? Non è un segreto che al-Nusra abbia rapporti molto stretti con Qatar e Libano. Quando, lo ricorderete, nel 2013 furono presi in ostaggio un gruppo di monache. Esse furono liberate proprio con l'intervento diplomatico sia di Qatar e di Libano. Evidentemente, insomma, avevano un canale privilegiato appunto col al-Nusra. Se questo tema vi intriga particolarmente, promesso che ci torneremo sopra. 349-238-6666, ve lo ricordo, sia SMS che WhatsApp, Twitter nessun luogo 24, oppure Jampaz, Facebook nessun luogo lontano, trattino Radio 24, in questa pagina tutta dedicata alle Filippine e a questa lotta senza quartiere del neoeletto presidente. Quello che ha detto: ammazzate pure i trafficanti di droga se avete un'arma in casa, ha detto anche ai civili, e quello che ha detto che i giornalisti corrotti meritano di morire, e quello che pochi giorni fa, sabato sera, si è presentato alla televisione nazionale e ha letto 160 nomi che sarebbero in qualche modo e a vario titolo coinvolti nel traffico di droga. Qual è la reazione del popolo filippino di fronte a queste ultime mosse di Duterte, in particolare alla pubblicazione di questa lista di nomi? Sentite ancora la senatrice De Lima. Is also alarming to me in the sense it's disturbing to me. Mi preoccupa e mi allarma molto il fatto che non vediamo ancora una parte sostanziale della popolazione esprimere la sua indignazione di fronte allo stato delle uccisioni. Ci sono poche voci e noi le ascoltiamo. Alcuni gruppi stanno muovendosi e protestando contro ciò che sta accadendo, anche se lentamente e gradualmente. La maggioranza, come si può vedere da certi sondaggi, soprattutto online, supporta le posizioni del presidente. Le persone si sono abituate a vedere al telegiornale le immagini di cadaveri che vengono trovati e le morti nelle operazioni della polizia sono all'ordine del giorno. Sul lungo periodo non posso immaginare quale sarà l'effetto sulle persone di quello che sta accadendo. E in un paese, l'arcipelago delle Filippine, di quasi 100 milioni di abitanti, un paese che noi di riflesso conosciamo bene perché la diaspora filippina è molto molto presente in Italia, da alcuni mesi stanno accadendo delle cose. Fra queste c'è stata l'elezione del presidente Duterte, che, come vi dicevo, ha promesso pugno duro contro i narcotrafficanti. E se avete maggiore curiosità, andate su radio24.it, vi scaricate il podcast della puntata della scorsa settimana in cui tratteggiamo meglio questa figura e iniziamo a parlare di questa lotta senza quartiere. Abbiamo poi raggiunto una senatrice liberale, la senatrice De Lima, che è particolarmente critica rispetto alle ultime mosse di Duterte, perché lei dice, sottolinea e ricorda che insomma le Filippine hanno una tradizione anche costituzionale sul rispetto dei diritti umani e le ultime mosse del presidente certamente non le rendono onore. E in più c'è grande punto di domanda su quelle che vengono chiamate gli squadroni della morte. Verranno condotte indagini? Sentite. Questo è uno dei temi su cui ho intenzione di indagare in Senato. Vogliamo capire perché né il governo né le principali agenzie governative stiano conducendo indagini chiare e trasparenti sullo stato attuale degli omicidi. Ci sono state alcune dichiarazioni, per esempio quella del segretario del Ministero degli Interni e del governo locale, che ha ordinato al capo della Polizia Nazionale di reagire contro le continue uccisioni, ma bisogna scoprire quanto siano seri questi proclami. How serious they are, we'd like to find out. Perché il problema degli squadroni della morte nelle Filippine è che il presidente avrebbe avallato la formazione di queste squadre paramilitari, di queste milizie, che aiuterebbero a fare piazza pulita di trafficanti e di spacciatori. Lo ricordo, il mercato è fondamentalmente composto da metanfetamine e droghe sintetiche. Nel paese asiatico. Questo era il capitolo dedicato alle reazioni, soprattutto politiche, rispetto al presidente Duterte nelle Filippine. Adesso cambiamo totalmente argomento, stiamo sempre in Asia. La storia che vi raccontiamo adesso suona così. Sono una boy band, sono sudcoreani, cantano in coreano, cantano in cinese, cantano in inglese, come potete sentire. E sapete dove spopolano? Non tanto a Seul quanto a Pechino, cioè il mercato cinese è per l'industria pop musicale europea un mercato di sbocco molto molto importante, e questi EXO sono uno degli ultimi frutti appunto di questa fiorente industria musicale. Per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, nel 2009 l'industria discografica sudcoreana valeva circa 30 milioni di euro. E fin qui direte voi, cosa c'entra la geopolitica, cosa c'entrano gli esteri? Questa è una notizia di musica, di pop, di spettacolo. Ebbene, però, le note degli EXO si intrecciano incredibilmente, ineluttabilmente, con l'acquisto da parte di Seoul di un sistema antimissilistico. Che cosa c'entra tutto ciò? Come si possono combinare una boy band e un sistema antimissili? Ci soccorre in questa spiegazione Cecilia Attanasio, buongiorno, sinologa, giornalista, la potete leggere fra l'altro sulla Stampa, su Internazionale. Cecilia, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, a prima lettura sembra un ossimoro, un paradosso. Insomma, oggi leggevamo il pezzo sul New York Times che ci raccontava di questo gusto cinese per il K-pop, così viene definito appunto Korean pop, il gusto popolare di cui fa parte la musica, la moda, eccetera, eccetera, per i cinesi. Però in mezzo c'è questo mezzo mistero di un armamento difensivo, di una piattaforma antimissile che Seoul avrebbe comprato dagli Stati Uniti e che avrebbe creato questa bizzarra reazione, una censura da parte di Pechino sull'industria pop coreana. Che cosa sta accadendo, Cecilia Attanasio? Allora, da quanto sappiamo da Pechino, ci sono state diverse voci all'interno dell'industria culturale cinese che hanno fatto sapere ai media, che fondamentalmente l'autorità che governa tutto ciò che va in onda sia su radio che televisione che su internet per la Cina avrebbe messo in stand-by tutti i programmi che ospitavano pop star coreane e addirittura le serie TV coreane che in Cina, diciamo, spopolano quanto da noi le serie TV americane. Che significa questo? Si tratterebbe, secondo molti, di una risposta, di fatto di un boicottaggio a quel sistema antimissilistico che Stati Uniti e Corea del Sud hanno deciso di posizionare sulla costa sudorientale della Corea del Sud in risposta alle minacce della Corea del Nord. La Cina si sente minacciata perché quei missili potrebbero arrivare anche sul loro territorio. E allora che fa? Usa una forma di boicottaggio che più che culturale però sembra essere economica. Per quanto riguarda l'industria dell'intrattenimento coreana, quella che si chiama Korean Wave, che è cresciuta tantissimo con tanto supporto governativo negli ultimi 20 anni, di fatto è diventata anche un'industria, e la popolarità di serie TV e di modelli sudcoreani nelle fasce giovani di consumatori cinesi è diventato qualcosa di molto importante a livello economico. Sì. Ci sono industrie cosmetiche, chirurgia plastica e turismo che di fatto si basano sulla popolarità dei luoghi e dei prodotti che vengono visti in queste serie TV. Si tratta addirittura, secondo molti, del 30% dei turisti che arriva in Corea del Nord e in Corea del Sud arriva proprio a seguito per ricercare i posti e i luoghi delle proprie star. Sì. Sudcoreane. Sì. Fra l'altro, questa cosa che mi stai raccontando ho potuto tastarla con mano qualche mese fa, quando tra Pechino e Shanghai, e fra l'altro ci siamo anche incrociati e ci siamo conosciuti nell'occasione, lo ricorderai, stavo lavorando su una storia che aveva a che fare con i canoni di bellezza cinesi, e lì insomma in questo viaggio tra Pechino e Shanghai, la moda, la bellezza e la musica eccetera, scoprì che in effetti la Corea tra le giovani ragazze cinesi rivestiva un ruolo particolare, perché si diceva ma il modello di bellezza coreano mi piace molto, e lo contrapponevano ad esempio a quello giapponese. Era come uno standard, no? Erano dei canoni di bellezza, e tu ci stai aiutando a comprendere come poi quei canoni di bellezza abbiano un contraltare economico molto forte, molto importante, che è la grande leva sulla quale sta giocando adesso Pechino per rispondere a quei missili, e a anzi a quello scudo antimissile che Seul, appunto col finanziamento americano, con l'aiuto degli Stati Uniti, sta impiantando. Cecilia Attanasio, sinologa, giornalista, la potete leggere sulla stampa, su Internazionale, stai con noi, adesso c'è l'informazione a proposito finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Move it, 让谎言作废, no more shaking like that. 倒数, 归零后就会, 洗净了伤悲, 真心的敬畏, 时间还有空间穿越游走梦想完美过度的光辉会让我们. Insomma, dovete un po' immaginarveli questa boy band, si chiamano EXO, che cantano in coreano, in cinese, in inglese, ogni tanto miscelano, che salgono sul palco e fanno impazzire le giovani di Pechino e di Shanghai. Con Cecilia Attanasio stiamo cercando di capire meglio qual è il rapporto che lega questa band, ma non solo, tutta l'industria pop di Seul al mercato cinese. Perché? Perché a un certo punto la risposta di Pechino rispetto a una nuova arma di difesa, una nuova piattaforma missilistica che Seul ha installato grazie all'aiuto degli Stati Uniti, beh, la risposta è stata stop a tutto quello che è coreano, e Seul, come potete immaginare, non la prenderà bene. Perché? Perché significa milioni e milioni di euro di danni. Cecilia Attanasio, sinologa, giornalista, leggetela sulla stampa ma anche su Internazionale. La cosa interessante è che già nel 2012 l'industria del pop coreana era stata oggetto di un boicottaggio, stavolta però da parte del Giappone. Interessante che quest'arma ritorna, no? Sì, molto, ma bisogna anche considerare che nel 2014, solo per fare un esempio, l'esport di questa industria culturale coreana faceva 5,3 miliardi di dollari, che non sono proprio noccioline. Ora nel 2015 sono cresciuti ancora gli introiti del 44%, vuol dire tanti soldi, e di fatto la metà degli export sono indirizzati alla Cina. Quindi è un mercato importante. Subito dopo viene il Giappone, ed eccoci qua per ricollegarci nel 2012 a quello che dicevi te. E, sì. È anche interessante citare a questo proposito che per il momento non c'è stata nessuna reazione ufficiale da parte della Corea del Sud. Tutti aspettano un po' a vedere se queste direttive poi diventeranno effettivamente reali. Per il momento sono stati sospesi i concerti, sono state date delle indicazioni nel senso di aspettare, e ci si aspetta proprio di vedere che succederà. Nel frattempo i media di Stato cinesi, come si sa, sono quasi tutti governativi, e in questo uno dei più conosciuti è quello proprio il Global Times, ha tirato fuori un sondaggio in cui diceva che l'86% di 280.000 cinesi intervistati avrebbe comunque sicuramente preferito seguire una forma di nazionalismo piuttosto che l'intrattenimento offerto di questi giovani idol sudcoreani. Sì, insomma, l'ordine di scuderia poi in Cina funziona, esatto. Quando Pechino dice qualcosa ha voglia. In telegrafica, se riesci, Cecilia Attanasio, con uno slogan indaghiamo un po' meglio questo rapporto di attrazione, di amore e odio, attrazione e repulsione tra Pechino e Seul. La Cina che invidia il Gangnam Style ma alla fine non riesce a riprodurlo in casa, come mai? Beh, in questo, diciamo, la Cina ha delle direttive anche sulla cultura emanate dal governo, emanate dal partito, che in qualche modo frenano moltissimo la creatività. La Korean Wave nasce di fatto da tutte le persone che negli anni 70 e negli anni 80 sono andate a studiare in America, spesso nell'area di Los Angeles, e sono tornate indietro con un bagaglio culturale molto occidentale che poi hanno tradotto nei loro stilemi, e di fatto in tutta l'Asia è risultato vincente. Grazie, grazie mille Cecilia Attanasio, lo ricordo, la stampa internazionale fra gli altri, giornalista di base a Pechino, buona giornata e buon lavoro Cecilia. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, adesso cambiamo decisamente argomento e cambiamo anche continente, perché vi porto in Africa. Lo preannunciavo, andiamo in Etiopia, perché il governo di Addis Abeba sta fronteggiando una serie di proteste senza precedenti. E ascoltiamo la ricapitolazione che abbiamo confezionato per voi. Dallo scorso novembre l'Etiopia è stato teatro di una serie di proteste contro il governo. Le contestazioni, espressione del forte dissenso nei confronti del presidente Malatu Testome, sono iniziate a gondar nella regione di Amara per poi diffondersi successivamente anche in Oromia. Qui, secondo Human Rights Watch, oltre 400 persone sono morte negli scontri con la polizia. Tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno soffocato nel sangue una serie di manifestazioni, uccidendo circa 100 persone, di cui 30 nella città di Bahir Dar. Era da 25 anni che non si assisteva a un'ondata di violenza simile. In Amara e Oromia vivono i due gruppi etnici più importanti del paese, che lamentano sia la loro esclusione dal potere politico e dallo sviluppo economico, sia la mancanza di riforme e di elezioni libere e democratiche nel paese. Oltre alla violenta repressione delle sollevazioni popolari, il governo ha bloccato l'accesso a internet per 2 giorni. Per capire meglio cosa sta accadendo in queste due regioni dell'Etiopia, una anche piuttosto attigua alla capitale, Addis Abeba, ci aiuterà Luca Puddu, che è un esperto del paese, ricercatore all'Institute for Global Studies, al North African Institute e all'Università degli Studi di Cagliari. Puddu, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, allora, grazie per l'invito. Grazie a lei della disponibilità. Stavamo ricordando che vi sono proteste che vanno avanti da novembre del 2015 a oggi. Quali sono le richieste fondamentali che vengono da queste due regioni, Oromia e Amran? Ma guardi, le proteste in realtà nascono da ragioni molto differenti. Nel caso delle proteste nella regione di Oromia, nascono dal tentativo della municipalità di Addis Abeba di estendere la propria giurisdizione e dunque nazionalizzare delle terre che ricadevano sotto il controllo dello Stato regionale di Oromia. Secondo i manifestanti, questi espropri erano la prova di come il governo attuale si ponga senza soluzione di continuità con i governi che anche prima del 91 avevano storicamente discriminato gli Oromo, i quali, nonostante il loro status di principale gruppo etnico nello Stato etiopico, sono stati appunto storicamente esclusi dall'accesso alle principali cariche all'interno del governo centrale. Dunque, nel caso della regione di Oromia, le proteste andavano nella direzione di promuovere ulteriormente il processo di decentralizzazione amministrativa che è stato iniziato nel 1991 dall'attuale governo guida dell'Ethiopian People's Republic Democratic Front. Nel caso delle proteste nella regione dell'Amara, sì, sicuramente c'è un minimo comune denominatore, che è la rimostranza contro il governo centrale. Allora, Luca Puddu, abbiamo un problema con la linea, adesso lo richiamiamo. Vi stiamo parlando di queste proteste che hanno avuto un esito tragico, più di 70 i morti, la polizia etiope non ci è andata per il leggero. Abbiamo raggiunto pochissime ore fa Michelle Kagari di Amnesty International, lei è la responsabile della regione dei Grandi Laghi, del Corno d'Africa, dell'Africa, insomma l'Est, di cui fa parte l'Etiopia, così fotografa la situazione. Sentite Michelle Kagari. Le informazioni che abbiamo ci dicono che nel corso del fine settimana migliaia di persone sono scese a protestare per strada sia nella regione di Oromia sia in quella di Amhar. Chiedevano riforme politiche, il rispetto del giusto processo e dello Stato di diritto. Le forze dell'ordine, in un tentativo di disperdere i manifestanti e sedare le proteste, hanno agito con la mano molto pesante, hanno sparato proiettili sulla folla, li hanno picchiati. Il risultato delle azioni delle forze dell'ordine è che un certo numero di persone sono rimaste uccise, in centinaia sono stati arrestati. Secondo le informazioni che abbiamo dalle nostre fonti, 62 persone sono rimaste uccise in Oromia e almeno 30 in Amhar. Thank you. E nel frattempo il governo di Addis Abeba ha deciso di buttare giù i social, evidentemente per evitare un ulteriore dilagare della protesta. In parte le cause ce le ha spiegate Luca Puddu. Sentite sempre sulle cause ancora che cosa dice Michel Kagari di Amnesty International. Le principali richieste dei manifestanti riguardavano le riforme. Sul fronte di Oromia, le proteste andavano avanti dal novembre dello scorso anno e sono state innescate dal piano del governo di espandere la capitale, Addis Abeba, direttamente nel territorio di Oromia. Gli oromiti protestavano perché non sono stati consultati e sono preoccupati per i risarcimenti che spettano loro in cambio della terra. Queste proteste del novembre scorso sono estremamente simili a quelle di oggi. Anche allora è stata usata una forza eccessiva da parte della polizia. E secondo l'ultimo bilancio che abbiamo, allora erano rimaste uccise 500 persone, centinaia di arresti, e un certo numero di loro è stato imprigionato sulla base delle leggi antiterrore. Insomma, in Oromia le proteste vanno avanti da un po'. Su Amhar, quello che sappiamo è che le proteste sono iniziate a luglio e hanno condotto all'arresto di uno dei leader del movimento che spingeva per l'inclusione di una certa zona nell'area amministrativa nella zona di Amhar e non in quella del Tigri, come vuole il governo. E abbiamo ristabilito il collegamento con Luca Puddu, ricercatore all'Institute for Global Studies, North African Institute, Università degli Studi di Cagliari. Puddu, abbiamo capito che le proteste nascono da evidentemente tensioni etniche, ma anche come si dice, tensioni territoriali, di urbanizzazione, anzi meglio, amministrative. Sì, assolutamente. Nel caso dell'Amhara, come veniva appena descritto da Amnesty International, il casus belli è una ripartizione territoriale tra gli stati regionali dell'Amhara e del Tigray, laddove lo stato del Tigray ha annesso dei territori che fino al 91 ricadevano sotto la sovranità della regione di Gondar. Ciò che volevo mettere in evidenza prima, poi il collegamento sì, è stato, è il fatto che nella regione Amhara le rimostranze degli Amhara contro il governo centrale si basano su presupposti radicalmente diversi. Gli Amhara cioè considerano l'attuale architettura federale etiopica come una misura punitiva presa nei confronti del gruppo etnico Amhara che fino al 91 aveva storicamente dominato la vita politica etiopica. Dunque loro considerano l'attuale ordine federale contrario agli interessi del paese vorrebbero appunto ripristinare in un certo qual modo lo status quo ex ante. Chiaramente poi sia gli Oromo che gli Amhara si fondono nel loro opporsi a quello che secondo la retorica dell'opposizione è lo strapotere esercitato dai tigrini nell'attuale governo federale e soprattutto nei consigli d'amministrazione delle compagnie parastatali che dominano l'economia etiopica. In questa pagina di Nessun Luogo Lontano vi stiamo raccontando quella che potrebbe essere il preludio di una crisi più grande dell'importante paese africano nel Corno d'Africa. In Etiopia, in due regioni in particolare, vi sono state forti proteste con decine e decine di morti nel solo weekend. Perché vi stiamo raccontando questa cosa? Al di là dell'importanza dell'Etiopia e degli eventi in sé, forse raccontando queste cose capiremo anche meglio perché a volte tra le fila dei migranti si trovano appunto migranti di nazionalità etiope. 349-238-6666 per i vostri sms ma anche WhatsApp, Twitter Nessun Luogo 24, Jumpats, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Con Luca Puddu torniamo ad analizzare ancora la crisi etiope, non prima però di aver sentito cosa succede sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Sedici secondi in questo esatto istante, mentre vi parlo e vi racconto dell'Etiopia, in questo momento stanno parlando Putin e Erdogan, stanno tenendo la conferenza stampa, vi abbiamo raccontato di questo incontro storico proprio nella puntata di ieri di Nessun Luogo è Lontano. Ebbene, quello che sta uscendo da questa conferenza stampa è che i rapporti tra Mosca e Ankara si stanno rivitalizzando, si stanno rafforzando e a partire da quel colpo di Stato sventato i rapporti con l'Occidente invece, da parte di Erdogan ovviamente, si stanno raffreddando. Questo incontro a San Pietroburgo è molto molto importante perché probabilmente andrà a sancire un nuovo equilibrio, quantomeno uno spostamento degli equilibri delle superpotenze in quella importante zona. Ma torniamo a parlare di Etiopia. Se ci state seguendo fin dall'inizio avete sentito che abbiamo raggiunto la responsabile di Amnesty International, la quale senza mezzi termini punta il dito contro le forze dell'ordine che hanno represso nel sangue le manifestazioni che vi stiamo raccontando. Sentite ancora Kagari. Le autorità etiopi hanno costantemente mostrato una completa mancanza di rispetto per diritto di espressione e di libera riunione del loro popolo e sono diventate sempre più repressive sul legittimo esercizio dei diritti basilari della persona. Siamo molto preoccupati per il ruolo delle forze di polizia. Il modo col quale hanno sparato sui manifestanti equivale di fatto ad esecuzione senza un processo. Le forze dell'ordine sono state lasciate libere di operare nell'impunità. Il governo deve fermarle e rispettare i suoi obblighi, rispettando il diritto dei cittadini e assicurandosi che la polizia operi nel rispetto di standard professionistici. Chiediamo che i funzionari coinvolti nella morte di civili vengano processati. Questo è il durissimo atto di accusa di Amnesty International rispetto al governo etiope che ha mandato i poliziotti in strada per reprimere nel sangue le proteste. Fra l'altro ricordava la ricercatrice di Amnesty che anche dal punto di vista dei media il panorama mediatico etiope non è particolarmente vitale, proprio perché c'è una forte censura anche su media e giornali, ed è uno dei motivi per cui molto spesso queste proteste non vengono adeguatamente raccontate. Con Luca Puddo, che è esperto del paese ed è un ricercatore in vari atenei e think tank, stiamo cercando di capire meglio le ragioni di queste proteste, ma soprattutto le conseguenze. Allora, intanto precisiamo, Luca Puddo, che non ci sono elezioni in Etiopia dal 2005 e fondamentalmente le opposizioni non riescono a trovare uno sbocco istituzionalizzato per far valere le loro ragioni. Da qui si capisce meglio anche queste manifestazioni di piazza. Assolutamente, l'assenza di una valvola di sfogo elettorale spiega molto bene queste proteste di piazza. Tuttavia, in realtà le elezioni si sono tenute anche nel 2010 e nel 2015. Nel 2005 si sono tenute le ultime elezioni che possiamo definire libere secondo i canoni europei occidentali, elezioni che si conclusero con una significativa vittoria dell'opposizione, che però non riconobbe immediatamente i risultati elettorali, accusando il governo di brogli, e da queste accuse poi il passo fu breve per grandi proteste di piazza che vennero soffocate nel sangue. Ecco, il 2005 è un pochettino il momento di cesura, perché da una possibile apertura dell'agone politico si passa invece ad un sempre maggior controllo da parte del governo centrale, e in parte la responsabilità va condivisa anche con l'opposizione, che appunto non riconobbe comunque quello che in quel momento era un risultato assolutamente significativo. Oggi, nel 2015, alle ultime elezioni, la coalizione di governo ha vinto con una percentuale oltre il 90% dei voti, e l'opposizione non è stata in grado di conquistare neanche un seggio nel Parlamento federale. Quindi questo naturalmente chiaro. Dice tanto. Chiaro. Luca Puddo, l'ultimissima domanda, la prego di essere telegrafico nella risposta, e so che è una domanda difficilissima. Che cosa può accadere adesso? Ci può essere un'estensione delle proteste? Possono lambire anche la capitale, o comunque rimangono, per il tipo di richieste, confinate in quelle due regioni di cui stiamo parlando? E quanto può tremare Addis Abeba di fronte a queste proteste? Ma guardi, naturalmente non si possono dare previsioni. Ci sono state altre proteste significative in altri centri. Nel mese di maggio è stato ucciso il comandante delle forze armate regionali ad Arbamink, nel sud del paese. Per quanto riguarda naturalmente la tenuta del governo, io credo che difficilmente ci siano rischi imminenti per la caduta del governo, ma sicuramente c'è una competizione sotto traccia in atto all'interno dell'establishment di governo, e sicuramente queste proteste possono essere essere state accolte anche con una certa simpatia da alcuni pezzi dell'establishment che avversano il processo riformistico interno o che al contrario vorrebbero spingere il governo federale ad adottare ulteriori riforme verso una maggior liberalizzazione. Grazie mille, Luca Puddu, esperto d'Etiopia, per questa analisi, ricercatore all'Institute for Global Studies, North African Institute, Università degli Studi di Cagliari. Buona giornata e buon lavoro. Buona. Arrivederci, grazie. (349) 238 6666 per domande, commenti, suggerimenti, suggestioni, sia WhatsApp che appunto SMS, Twitter, Giampaz, Nessun Luogo 24, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, l'ultimissima pagina di Nessun Luogo Lontano, che è ripartita fra quello che sta accadendo in queste ore in Etiopia, ma che continueremo a seguire, di cui vi daremo conto degli sviluppi domani nella nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, e poi però c'è quell'evento che il GR di Radio 24 vi ha raccontato, che è stato l'attentato in Pakistan ieri a Quetta, che ha fatto oltre 70 morti. Però c'è una novità, che nelle ultime ore è arrivata la rivendicazione di Jumaat Ul Ahrar, scusate la pessima pronuncia, che è una fazione dei talebani, e poi però è arrivata anche una rivendicazione ufficiale dello Stato islamico. Lo ricordo, l'attentato di ieri ha fatto oltre 70 morti, quasi tutti avvocati in un ospedale erano intervenuti per dopo l'assassinio di un leader di questi avvocati, appunto. Qual è il significato di questo attentato, ma soprattutto di questa doppia rivendicazione? Giuliano Battiston, ricercatore, giornalista indipendente, esperto di Pakistan, buongiorno e ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio. Allora, il significato di questo attacco e soprattutto di questa apparentemente doppia rivendicazione? Sì, però è difficile stabilire quali siano gli elementi certi. Io tenderei a dare credito alla prima rivendicazione, che è quella fatta per venire ai media dal Jamaat Ul Ahrar, che è questo gruppo che fa parte della galassia dei talebani pakistani. E dico questo perché la tipologia dell'attacco ricorda alcuni attentati già fatti dai gruppi che militano all'interno appunto della galassia dei talebani pakistani, che colpiscono in questo modo. La tattica è particolarmente infame, direi, cioè si colpisce un personaggio autorevole, in questo caso Bilal Kafi, presidente dell'Associazione degli Avvocati del Belucistan, e poi si aspetta che si raccolgano personaggi altrettanto autorevoli, in questo caso per lo più avvocati, attivisti, giornalisti, e li si colpisce in un secondo momento con un attentato suicida. Così è avvenuto ad esempio in passato, già a questa nel caso di un di polizia, così è avvenuto in Afghanistan in molti casi. Uno dei più famosi è l'attentato che c'è stato al funerale del fratello dell'allora presidente nel 2011, del fratello di Hamid Karzai. Sì. E quindi tenderei a dare credito alla rivendicazione del Jamaat Ul Ahrar, che ha già dimostrato di poter colpire nel Belucistan e in altre province pakistane, mentre la cosiddetta provincia del Khorasan, cioè la branca dello Stato islamico in Afghanistan e Pakistan, ancora non ha dato prova in Pakistan di capacità operative. Ecco, Battiston, fra l'altro si ha la sensazione che queste rivendicazioni di ISIS siano un tentativo, a volte anche, non voglio dire maldestro, però insomma ex post, sempre comunque di mettere lo zampino su tutto quello che di tragico avviene, per cercare di, come dire, mettere a frutto questa strategia globale del terrore. Per i molti che non sanno dove siamo, Quetta, il Baluchistan, che regione è del Pakistan? È una regione particolarmente turbolenta, direi. È una regione che confina con l'Afghanistan e con l'Iran ad ovest e che sbocca nel mare Arabico. È particolarmente turbolenta perché c'è un forte movimento irredentista dei Beluci, appunto, che rivendicano una maggiore autonomia rispetto all'Islamabad. C'è da dire che Islamabad negli ultimi anni non ha fatto altro che intensificare e alzare il livello dello scontro militare con pratiche del tutto fuori dallo Stato di diritto, tanto che proprio gli avvocati che sono stati colpiti nell'ospedale di Quetta ieri hanno dovuto soffrire molte perdite, perché raccolgono le istanze, le rivendicazioni degli attivisti, di chi lamenta gli arbitri dei militari pakistani in qualche modo ci rimettono la carriera, in qualche caso anche la pelle, come è successo ieri appunto. Giuliano Battistone, ricercatore, giornalista freelance, seguitelo su Twitter, Battistone_G, si occupa di Afghanistan e Pakistan. Già ieri e oggi abbiamo, come dire, messo in luce le diversità all'interno delle formazioni che stanno combattendo, per esempio ad Aleppo. Molto spesso si etichetta, e si fa anche coi talebani, no? Si etichettano realtà multiformi. Ci aiuti sinteticamente a capire, quando diciamo talebani in realtà stiamo intendendo varie fazioni, questa ad esempio che ha rivendicato l'attacco è abbastanza vicina a ISIS, che mondo è quello talebano oggi nel 2016? È un mondo molto complicato. Io intanto distinguerei i talebani afghani da quelli pakistani, che sì, hanno in comune molto poco, tranne appunto una matrice geografica comune, che è quella appunto delle aree a ridosso del confine tra Afghanistan e Pakistan. I talebani afghani hanno un'agenda del tutto domestica, quindi focalizzata a cacciare le truppe che considerano di occupazione sul proprio territorio e in qualche modo a far valere i propri valori all'interno dell'assetto politico. I talebani pakistani invece sono un gruppo molto meno coeso, che è nato nel 2007 mettendo insieme una serie di gruppi militanti delle aree tribali che sfuggono al controllo del governo di Islamabad e che hanno sempre sofferto forze centrifughe fortissime. Non a caso proprio questo gruppo, che ha rivendicato la paternità dell'attentato di Quetta, nasce un po' da una costola dei talebani pakistani. Nell'estate del 2014 c'è stata, come spesso accade, una discussione sulla leadership dei talebani pakistani. Un certo Khorasani voleva intestarsi la leadership, non gli è stata negata e ha sì, deciso di scindersi. Poi è rientrato nel gruppo e oggi però, a differenza di quanto qualcuno sostiene, questo gruppo scissionista è rientrato all'interno dei talebani pakistani e non ha vincoli né legami con lo Stato islamico. La vera differenza è tra le affiliazioni tra i due grandi gruppi jihadisti che monopolizzano il panorama jihadista contemporaneo, da una parte Al-Qaeda e dall'altro lo Stato Islamico, che lo ricordiamo sono antagonisti l'uno rispetto all'altro. I talebani pakistani stanno con Al-Qaeda e lo Stato Islamico invece combatte Al-Qaeda. Grazie mille, Giuliano Battistone, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. Titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati, che si sono dati un grande affare anche quest'oggi per raccontarvi il mondo, Andrea Roccabella che lo ha messo in ritmo e musica, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento questa sera ore 21 per la replica, domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto, una buona giornata da Giampaolo Musumeci.